Io parlo a nome della rete della Scuola per la Palestina, insieme all'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dei centri per Gaza. Abbiamo organizzato questo presidio il 13 alle 16:30 in Piazza Nettuno per richiamare l'importanza della libertà di insegnamento, perché abbiamo notato una serie di accadimenti che secondo noi la mettono in discussione. E abbiamo visto anche che è in collaborazione con l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, quindi come si interseca anche appunto la questione della libertà di insegnamento con gli ultimi provvedimenti come l'inserimento del metal detector nelle scuole e anche le schedature recenti che ci sono state da parte di Azione Studentesca nei confronti dei docenti di sinistra. Sì, è chiaro che noi abbiamo molti punti di lotta in comune, sia con l'osservatorio che con gli docenti per Gaza, perché noi rivendichiamo la libertà di parlare nelle scuole di tutti gli ordini e gradi di ciò che sta accadendo nel mondo e di adottare un punto di vista quanto più neutrale possibile, che è quello del diritto internazionale, e questo ci è stato negato in diverse occasioni negli ultimi mesi. Inoltre, i presidi hanno preso dei provvedimenti contro alcune colleghe e colleghi che hanno fatto partecipare delle classi, per esempio alla presentazione del libro dell'albanese, iniziative già approvate dai consigli di classe. Noi questa la valutiamo come una forte ingerenza dei presidi appunto sull'autorità dei consigli di classe, che mina l'articolo 33 della nostra Costituzione, che prevede appunto la libertà di insegnamento. Inoltre, quello di cui parlavi tu è appunto la richiesta di Azione Studentesca, che ha sottoposto ad alcuni studenti un questionario, un modulo Google, in cui veniva loro chiesto di segnalare i loro docenti di sinistra. Noi ci siamo ribellati, continuiamo a ribellarci, è una lista di proscrizione assolutamente inaccettabile, e quindi tutti questi avvenimenti ci fanno sentire un po' sotto attacco. Quindi noi ci uniamo per ribadire che la scuola è libera, i docenti sono liberi di insegnare e di trattare i temi nel modo più approfondito e libero che ritengono. Perché si diceva anche rispetto appunto alla censura che è stata fatta su alcuni temi, soprattutto su quelli riguardo appunto il genocidio in Palestina, dibattiti che sono stati censurati richiamando una controparte, come se il giorno della memoria bisognasse chiamare i nazisti come controparte. Quindi com'è importante rispondere a queste affermazioni? Sì, allora, tutto parte da una circolare del MIM, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di novembre. In questa circolare il Ministro si rivolge soprattutto ai presidi, invitando alla presenza di un contraddittorio in qualunque tipo di dibattito che si organizza a scuola. Ora, è chiaro che questa circolare è tendenziosa, perché non si sta parlando di tutti i dibattiti, di tutti gli incontri che si organizzano nelle scuole. Sarebbe controintuitivo e anche paradossale. Noi organizziamo progetti di tutti i tipi a scuola, dalla violenza di genere alla mafia. Ora, capisci che organizzare un progetto sulla mafia invitando i mafiosi è un'assurdità, giusto? Quindi la necessità del contraddittorio e della pluralità di vedute, in realtà un cavallo di Troia per nascondere la censura destinata solo a certi progetti, e questi progetti sono chiaramente quelli che tendono a parlare di Gaza e della Palestina, perché abbiamo un governo schierato con Israele. Di fatto, altrimenti non si spiegherebbe questa censura così mirata. Quindi è una circolare che apparentemente colpisce, diciamo, invita al contraddittorio su tutti i progetti, ma nei fatti invita al contraddittorio solo su certi progetti. E quindi che cosa dovremmo fare per parlare di Palestina? Dovremmo invitare delle associazioni che spronano alla pace e contemporaneamente dei soldati dell'IDF? Capisci bene che è una cosa abbastanza improbabile, e di fatto quindi si traduce in una censura di qualsiasi di progetto che voglia affrontare il tema della Palestina oggi, ecco. Rispetto a questa cosa, un'ultima questione è interessante, appunto, anche cioè, presente in alcuni dei comunicati dei docenti per Gaza, la neutralità dei saperi, anche rispetto all'ultima cosa che hai detto, no? Della controparte e così via. Cioè, quindi quanto effettivamente i saperi sono neutrali e quanto invece sono contaminati da alcune strutture, no? Che sono già presenti anche nella disciplina storica, come quella del colonialismo, e questa cosa, appunto, quanto è importante nella mobilitazione. mobilitazione che voi state portando e nella libera espressione poi ovviamente della manifestazione di pensiero anche rispetto all'insegnamento. Ma noi abbiamo una scuola che da tutte le parti, in tutti i corsi di formazione che noi facciamo ancora oggi, perché noi continuiamo a formarci, pone al centro il pensiero critico, lo spirito critico. Ora, come facciamo noi ad insegnare ai nostri alunni il pensiero critico se a noi viene proibito? Cioè, se a noi viene proibito di criticare i libri di testo che, ci sono alcuni libri di testo che per esempio parlano di Gerusalemme come capitale di Israele, per esempio, c'è una narrazione mainstream che riguarda i principali organi di stampa, che è una narrazione che nasconde, diciamo, le responsabilità coloniali di Israele, perché si propone questo conflitto come un conflitto in cui non si capisce bene chi ha ragione e chi ha torto. Ma ricordiamo sempre che il motivo per cui tutto questo si scatena prima del 7 ottobre è il colonialismo di Israele, ecco, e questo spesso viene taciuto nella narrazione mainstream. Quindi noi vogliamo adottare un punto di vista critico anche rispetto alla narrazione dominante, e se non abbiamo la libertà di farlo noi, non vedo come mai potremmo insegnare a farlo ai nostri alunni. Invitiamo tutti i docenti a venire in piazza alle 16:30 del 13 febbraio per ribadire la necessità della nostra indipendenza. Ma non solo invitiamo i docenti, invitiamo gli studenti, invitiamo i genitori, invitiamo tutto il mondo della scuola, perché la libertà dell'insegnamento è un bene comune che va protetto davvero da tutti e per tutti.